chiamano perché abbiamo detto non abbiamo sentito più a Mario. C'era un problemino con i capi, erano i capi leggermente un pochettino distaldati. Ok. Mario, io sto chiedendo, ci sentiamo poi, più tardi, se ci sono. Attenzione. Hola, 1, 2, 3, prova a cambio. Ja, dove tu sei? Eia. E scendi tutto male, malissimo stavo scendo del radio. Cosa? No, adesso andiamo a... No, ero io per l'FM. Ai. Fatto è tutto strano. Aspetta un attimo, sto facendo un'accordatura al volo. Hola, hola, hola. Questo è Super Sideric, come sta andando? Benissimo. Calagala. E a casa sei già arrivato? Sono arrivato adesso. E allora te lo posso passare? Passalo. Vabbè, allora sto venendo, va. Calagala e Calagala. Vabbè, tanto è mala. Ciao Antonio Bombolo, buonasera. Buonasera anche a voi. Era venire, non mi senti, Qua sei a bomba, sì, non ce n'è problema. A bomba? Sto scendo liscio adesso. Ma arrivi un bel po', no, non ti preoccupare. Bene, sto arrivando. C'è 9.25 Radio 5 a bomba. Via, via. Andare. No, perché gli ho cambiato lo spezzone, ecco. E qui c'era lo spezzone a massa. E appunto volevo sapere appunto se stava andando bene. Benissimo. E ci a vedere. Oh, ma così muovi, no? No, le stazionarie non esistono. Oh, ho fatto un bel lavoro, Stazionarie zero. E io non ne ho neanche. Io sono a posto. E ci a vedere. Niente. Vado a segnare quanto è 9.25. Se è bello forte, c'è un bel forte qua. A me da va. 2, 3, 4, 5, 6. Va bene così. Bene va. Ah va, se piace guardare a fondo scala, sì. E allora va bene, dai. Stavo provando la stufetta, stava funzionando bene. La voglia che già pompa, non ti preoccupare. Quanto so di segnale dalle parti? Cosa già? Non ho nulla, Non ho stufa, non ho niente, c'ho proprio il batte normale. No, ti ascolto benissimo qua, non ci sono problemi. Dov'è? Ho detto che ti ascolto bene, 9.5, 9.10, sì. Già, vabbè, io non c'ho niente, non ho nulla, nulla, nulla. E io sto scendo liscio adesso, a tu, capito? No, già va bene, già. E a voglia. C'era altro in questo canale? Ah, c'era già, mi scavete, è chiuso. Scappa. Lo volevo salutare, vabbè, dai. Un attimo. Sì, fai. Ah, da venire pure un BRM oggi, mamma mia, già. No, io sono 5, a volte sale un po' di più. Non è male, dai. E a me mi sale 1-2, ho quell'antenna che c'ho. Ma già va bene, dai. Già andare. La radio è buona, è a tu. Ti ho detto di sì, è perfetta. E questo è un preato piccato, tutto riciclato. No, va bene. Sì, va bene, l'importante vada bene la modulazione del radio. Per il resto non ci stanno problemi, bene, tutto sotto controllo qua. No, è entrato a nessuno stasera, oltre gialle. Guarda di no. Aspettate proprio il 48. Prova. E questo com'è a tu, va bene? È molto più basso il segnale. Però già va bene lo stesso. Quanti passi stai usando? Questo sta dando 15 watt. 9.10 già andava. La radio è bella però, no, va bene, un po' di eco gli ho dato. Ah, già va bene. Un più basso di radio, però che andava in una tele. Ciao Giovanni, buonasera, anche a lì ben ascoltato. Fai un passaggio. Abbassa un po' la preamplificazione. Ma dove sei dalla macchina? Ma non mi arriva, ci sono di te. Ma cioè, prova a staccare un attimo. Io sento la radio strana, non ho capito, sono io. È un sazzolo. Sei in saturazione, se ciao Marino, buonasera, ben ascoltato. Ciao Franco, ciao anche a Mommo, se stai ascoltando. Stanchiamo il tuo Mommo più a casa. Sei in saturazione, Salato. Marino, buonasera. Salato. Sì, lo sto ascoltando bene, tu gli dico perché Santiago non sto più a ottava. No, non è stato tutto sacro, non si capiva cos'era. Tu sei sacro, ma c'è pure frequenza. Adesso mi garanto, Santiago 9. Maria, ti sto facendo male, di radio comunque. Sì, Giova, va bene. Santiago 9, Radio Super 5, di lusso alla mia stazione. È arrivato benissimo. Maria, c'hai un po' di strana quella radio, non ho capito perché. E aspetta il cambio, va. Cale positivo, ok. Va bene Giovanni, 7-8 Radio 5, va benissimo Giovanni, ti ascolto bene qua, non ci sono problemi. Ok, Marino. Fuori cancello, sì. Mi stai staccando tutto, mi stai staccando. Cosa? Staccando tutto? Dal mio QTH sono, Marino. Come bene sto arrivando? Troppo forte, sì. L'amico Giovanni, Santiago 9, per il mio QTH. Troppo forte c'è tra. Maria, passa un po' quella Luisa, che sul microfono, stai troppo strappando. Il mio? Oh, Marino. Dimmi, tu, dimmi, cos'è? Ma mi sento male io, ma se sto così. O sei fuori frequenza o stai strappando. Troppo, magari hai toccato il microfono troppo alto. Ma questo passaggio, tu? Cavolo. Non lo so, io ti sento malissimo. Fa un passaggio, Mari. Prova questo passaggio, uno, due, tre, prova. Adesso va bene. È sempre un po' così lo sento. Vabbè, adesso già va un po' meglio, ma... Poco basta dire come vedi fuori frequenza, capito? La radio sembra una radio quando parla, è un chiusa. Ho capretto, ok, vai, non permette che sto facendo cosa adesso, va. C'è Franco, c'è Antonio, c'è anche Giovanni, va. Dammi un rapporto lì da te, come sto arrivando di segnale. 9:20, Fra, 9:20. E adesso quant'è? Guarda un po', 1, 2, 3. E adesso non c'ho gli occhiali. Ok, sì, 9:18, 9:20. Cava di positivo, va bene, dai. Marino, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, cambio, attento Gianfranco, cambio. Buona moderazione, 9:10, Radio Super 5, va bene. Allora, chi è Gianfranco? Non so come avere un cazzo, quello che c'è, 9:20, vuole toccare. La tocca più lunga, va bene così, lasciala così. Nella veranda sono, sono nella veranda, cambio. No, va bene, ti ascolto benissimo qua, anche la radio pulita, di lusso. Chi è Gianfranco, così adesso? Giovanni Catalona, Ah, sì, ora te l'ascolto, chi c'è un di sera prima? Ora l'ascolto, ciao Giovanni. Ciao Antonio, sei tu? Io sono. Positivo, dai, ti sento, io ti sento anche a te, ti sento, ti ascolto. Ciao, dove sei? Ma non sei a Platamona, no? Terzo Pettine, Terzo Pettine. Ah, sì, a Terzo Pettine. Capo, lo sai che mi arrivi bene anche qua, caspita. Mi arrivi bene E lui è a Coso, è a... via Milano, Sassari. Sì, vabbè, sempre Sassari, c'è tutti quanti, dai. Aspetta, mi arrivi 8 picchi di 9, voglia che va bene. Non è vicino, no, Platamona. Ma ieri mi stavo preoccupando, sembrava che quel vento avesse fatto un po' di danno, invece già sembra che sia tutto a posto, dai. No, già va bene, ma con la 50 stai uscendo? Positivo. No, guarda, arrivi bene qua. Zona alta di Sassari, ti sento benissimo. Come arrivo lì a Terzo Pettine? Bene. No, non sei tanto bello. Ti ho sentito, in altre occasioni ti ho sentito molto meglio. Oggi non lo so perché. Tu devi capire che c'ho un apparecchietto qua, non è che faccio chissà cosa, no. Però ti arrivo forte, dai. Non so se è tutto. Non c'ho quello che c'ho a casa, no? Che se voglio arrivo ancora più forte lì. Allora, già funziona. sento un fischio enorme, non ho capito chi sei. Nino. Nino. Perché sento questo bordello, scusa, non si riesce a capire chi sei. Sono Danilo. Ciao Dani, cavolo, un bordello enorme. Caspita. Cioè, macello come? Disturbato di radiofrequenza? Sì, tu guardi, zona Budibuti? Ehi, ma tipo roba innescata? Non ho capito. No, adesso va bene, ti sento bene. E adesso perché sono già nel palmare? No, che ieri mi si è staccato un filo e lo sto risaldando. Ah, no, va benissimo, va. Aspetta che lo disinsaldo nuovamente e risaldo l'altro. Aspetta un attimino, dopo vi faccio sapere com'è. Ehi, approva. Cambio. Avanti. Avanti, Giovanni. Cose combinenti, cose combinenti. No, niente, stavo controllando una cosa qua. Vabbè. Capito? Bene, mi ascolti lì. Presidente. Cavalo positivo, tutto sotto controllo, sì, no, sto usando l'altra radio, sto usando adesso. Guarda, il segnale non è alto, perlomeno quello che vedo io, però la radio cazzo è pulitissima, pari vicino che vicino a me. Cava, il segnale sto uscendo normale, 10 watt, non di più. Infatti anche a te ti ho visto più l'altro in diverse occasioni. Adesso ti dovrei arrivare qualcosa di più alto. Vai, fai un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se mi vuoi arruinare la radio, dimmi tu. Che è? Buonasera. Buonasera, Danilo. Qua mi sta arrivando a 9.40. Ciao Danilo, buonasera. Me l'ha ascoltato. Ma dove stai modulando? Non sei qua vicino. Negativo. Zona di modulazione Monte Rosello Alto. Ah, quell'antennina che si vede su al monte, la tua è. Cava di positivo. Ma chi sa, papà, fortemi. Aspetta un attimino che continuo a saldarmi il filo, sennò oggi non avvino più. Quella tenuta di gomma è comunque. Danilo, quando hai finito mi fai un controllo radio anche a me. Grazie. Franco, dove sta Danilo? Ma presumo che sia ottava. E allora siamo vicini, che vedete. Va bene, portate che a me mi ascoltino con l'antennino di gomma, dai, poi per il resto già va bene. No, Sant'Orsola Nord sono. Vabbè, comunque sta arrivando bene qua. Ti ascolto benissimo, capito, non ci sono problemi. Ok, aspetta un attimino che mi sta squigliando il cellulare. Dunque con la macchina ci sono riuscito a sistemare tutto, cosa dici Gianfranco? Non ho capito Giovanni, mi sono parlato un secondo. Ti ho chiesto, con la macchina sembra a posto, no? Prova, sì, con la macchina arrivi 9 qua. Radio 5, cosa stai utilizzando in macchina? 48? Positivo, cazzo, non ti rendi conto che rimani, cazzo, neanche la città mercato ci sentivamo. Via raga, prendi i baracchini quando non servono, bisogna abiti. Andare un ghiaccio di ramondetta e come si risento. Capito? Come se vado la prima di libera e comincia a brilli, a vedere cosa cazzo è dentro. Io posso una cosa, quando lo seguo un poco di benzina, lui è buon fumo. Non bruciano la malesione. Sì, già bruciano, non ti preoccupare. Capito, a moi, va buà, va bene comunque, dai. Ti ascolto benissimo qua, non problem. E non ha giocato un cazzo, quindi ha giocato l'Inter che sta giocando fisso. Ha detto cazzo, riesci a vedere che sera, vedi quanti cazzo è. Beh, lasciali quello, ma io te l'ho detto, lascia il 48 in macchina e non sbagli, e te stai a cambiare altre radio, non vanno bene lì, è inutile. C'hanno pochi watt. Sì, radio, antenne, fili e questo e quell'altro, grazie, ogni a dire una guerra. Ma infatti adesso c'hai l'impianto a posto, non tu capi nulla, lascialo così, cosa mi la furti. Vabbè, ritiro tutto e me ne sono, amico mio, ci sentiamo domani. Va bene, dai, ciao Giova, saluta in casa e ce la riascoltare in prossima allora. Se cambio, già fra, se cambio, saluta in casa anche tu, ciao Antonio e tutto il resto, ciao. Ciao Giova, ce la risentiamo. Ah, Luca non l'avete sentito? Oh, Franco. Franco, ce Nessuno? Avanti. Mi senti adesso? Chi sei? Danilo? Sì. Ciao Danilo, Roberto, mi senti tu? Sì, ciao Robè. Ma sto un controllo radio, fai il favore Robè. La radio è chiara, non è forte però Dani, potrebbe essere un po' più forte. Non gliel'ho dato, accetto io, eh. Io accetto a questa radio, non gliene do. Però mi potresti dare solamente un consiglio su come saldare questi filacchi, sono talmente vini che non ce la faccio più a saldarli. Ma che radio è? 7000. Dimmi una cosa, quello c'ha quella crimpare? Sì, però c'ho la prolunghetta. L'adattatore c'è. E l'adattatore a Kenwood, che ieri mi si è strappato un filo. Ma non puoi alzare il livello microfonico di quella radio? Non me lo ricordo più com'era, devo prendere nuovamente il libro e guardare. Comunque mi sa che quello lì è al 50%, l'avevo messo la volta scorsa. Ma e cosa ha inserito il processore? No, il processore su questa non inserisce in AM. Ah, non ce l'ha, solo ce l'ha messa. No, solamente in AM questo qua non si inserisce. Negli altri frequenti sì. Ciao, poi Dani, come è andata a finire con l'antenna, con la cubica? Mi devi dare la misura, senza la misura io non posso fare niente. Ma te l'ho detto, l'avevo chiamata quello là e non si ricordava più niente. Beh, non riesce a risalire, se no lo diciamo a un amico che se ne intende, a un'altra persona. Pensavo avesse risolto. Roberto. Ciao, anche a te, ben sentito. No, comunque Robè, ieri ho preso il filo, no? Che erano disinstallati, te lo ricordi? Ho preso quel filo e l'ho reinstallato nuovamente. Adesso devo trovare un attimino per provarla. Ma tu più o meno le misure ce le hai, così sappiamo a quanto è accordata, ma glielo chiedo un altro che mi dai i calcoli esatti. Sì, ne ho una che è quasi simile, solo che cambia la lunghezza del boom. Tu fai una cosa, le facciamo lavoro al contrario, prenditi le misure esatte e mi dici il boom è 3 metri o quello che è, poi gli elementi sono tanto, e lo faccio vedere a una persona e vediamo un pochettino cosa mi dice, in base a quello lui mi darà delle informazioni. Tu mandamelo in WhatsApp, fammi una specie di schemino, un pezzo di carta, uno schizzetto e poi lo chiediamo a una persona. Quindi ti do le misure di quella che mi hai dato? Di quella che ti ho dato, così come realmente. E poi da quello riusciamo a capire qualcosa e Mario mi dice no, guarda che questo forse è meglio che lo fai così o diversamente. E ci darà le misure. Chi l'ha fatto lo faceva con cosa? L'aveva preso su internet, le misure erano calibrate. Però Mario vediamo un pochettino di capire qualcosa. Ah, ok, dai. Allora dammi il tempo di liberarmi 5 minuti, qualche giorno, di sera, così la apro, intanto ce l'ho in garage, ed è pronta a toglierla fuori. Prendo le misure e tutto quanto e poi ti faccio sapere, ti mando tutto quanto su WhatsApp. Ma guardate che sono precise, non per dire 2,20 m e magari 2,22 m, anche i centimetri sono importanti. Per forza. Se sbagli il centimetro stai uscendo già fuori banda. Certo che sì. Poi per il resto Dani studiando sai. Sì, sì. Su quello abbiamo ripreso nuovamente con la scuola, no? Stiamo facendo tutte quante le lezioni nuovamente, siamo già alla quarta lezione. Cappa, chi è che hai trombato? Tu o gli altri? Sì, io ero. Coraggio, sei 9.40 quasi qua. E io lo passo. Vabbè, non ne più in occhio, no. Se arriva a fondo scala, vabbè, siamo talmente vicini. No, non ce n'è più, no. Non ce n'è più proprio. Sicuramente sei 9.40, 9.50. Sì, da lì che antenna sta utilizzando in questo momento? Sì. Sempre la stessa, la Game Master che mi avevo costruito io. Sta arrivando quasi 9.20, sei da me. E invece tu mi stai arrivando a 9.30. No, sta arrivando alla grande. Vabbè, un pochettino più forte sarebbe voluta con la radio, ma il problema sono gli altri che sono troppo forti, se no saremmo tutti allo stesso livello, Maria andava benissimo anche così. Comunque, la radio è eccellente, chiara e pulita. Va più che bene. C'è qualche donato qua su 10, io sto facendo altre cose, l'ho acceso un attimino, ho sentito prima te chiamando e poi ad Antonio che sta facendo danno tutta la zona, di tutto, tutti i nidi di cose, c'erano gli animali, il letargo, gli uccellini sono tutti morti, Antonio. Non parlare di più Antonio. No, comunque adesso guardo, anche perché qua non si muovono, con l'adattatore che mi hanno fatto loro, non si muovono per sfruttarti con i canali, e più sicuramente non mi alimenta il microfono, perché questo microfono viene alimentato per essere amplificato, il microfono, Adesso continuo a controllare, perché qua sullo schema dello spinotto originale mi dà un colore. Vado su internet, controllo tutto quanto e mi dà un altro tipo, un'altra schermatura di colore. Adesso devo capire qual è l'esatta, oppure ci metto un attimino, smonto il TL che c'è dietro il microfono e guardo come è collegato lì. Sei molto attento su certi mali, soprattutto l'alimentazione, perché lì escono il coso, gli 8 volt se non sbaglio, confermi? Sì, gli 8 volt escono, però sull'RG58, entrambi sull'RG58, buonanotte, sull'RG45 e sul P1, invece sul Kenwood e sul P8, quindi devo invertire, devo portare quell'alimentazione 8 sul pin 1. Sì, ok, oh, signore, mi devo allontanare io, dai, Mario, se coincide ci sentiamo dopo che sto facendo altre cose. Ciao a tutti, ciao Antonio, ciao Danilo, eventuali qua amici in ascolto, ciao ciao. Ok, dai, ciao Rob, adesso ti invio la foto di questo, no? Così lo vedi. Ciao, quando vuoi. Vai, bianco per me, ce la sentiamo. Cos'è Anto? Eia! No, no, maschietti niente, solo giovani ucraine, buone pure. Per carità, che periodo, guarda, non vorrei essere nei loro panni. Chi sei, Giovanni? No, dimmelo rallenti però, aspetta. Non ho copiato. Ah, Guscio, ciao, ben sentito. No, io qua sto cucinando, c'era l'apparecchio acceso, ho sentito questa chiamata. Mi ho fatto ridere la battuta delle camerette pitturate, tutte belle carine. E chi lo sa, magari così qualcuno lo sta già facendo. Sì, ci stavo pensando, comunque Marco da questa parte. E stasera ho visto in un market uno con due carrelli pieni, ma se oso dire pieni, a Montagnetta, 200 più euro di spesa. Allora, questi si stanno già preparando alla fuga, al rifugio in caso di guerra. Sale grosso, ma per conservare la roba o per cosa? Vabbè, comunque la cosa preoccupante è che nei siti specializzati le razioni d'emergenza, che non è cibo normale, ma è proprio cibo che ti permette di sopravvivere, un misto di proteine, aminoacidi, vitamine, carboidrati, no? Si chiama cibo per le emergenze. Sta sparendo a questi siti di vendita, una roba che dura 20 anni e che va stoccata si può stoccare anche in a lunga durata, e sta sparendo, un brutto segno, vuol dire la gente si sta premunendo, non si sa mai, tanto mi, se si usa bene, se non si usa meglio, ma meglio essere previdenti. Sicuramente i prepper si staranno già sprecando le mani, non so se è presente i prepper, quelli preparati a tutto. Cappa, guarda, con queste armi, sì, con le armi moderne, praticamente alludo alle nucleari, forse è meglio un colpo secco che non rimanere vivi, perché non sarebbe vita, cioè per tapparsi sottoterra, magari fare la vita del topo per le radiazioni, però non potendo uscire fuori, forse è meglio morire subito. Bene, Guscio, io ti devo lasciare, che ho il forno acceso, devo tenere d'occhio la roba. Dai, ben sentito, sta entrando un po' pochina gente, dai, qualcuno entrerà, ok? Buona serata, buon tutto. Mi sembra che in generale hai quattro CQ10 con motore. Hola. Sasha, mi senti? C'è nessuno? Chi è avanti? Mi sei Roberto? No, Franco, la Sasha lì. Ciao Franco, Danilo, come mi senti, fra? Disturbato come poco fa? Non so, poc'anzi, come io accendo adesso. No, ti sento bene. Com'è, bella limpida, aspetta che faccio un silenzio. Com'è, disturbato o liscia liscio? No, si sente effettivamente, quando non parli, si sente qualche piccola scarichetta sotto. Si è sentito? Sì, si sente. Quando lasci il bianco si sente il rumore, sembrano delle scariche sul sottofondo. Ma quale questo? Questa qua? Rimetti la portante. Qua come... che tocchi il microfono così, guarda. Tipo così. Ah, boh. Non lo so quello. Comunque, a sentirmi, mi senti chiaro? Quello forte? Sì, sì, no, radio va bene. Solo quando c'è il silenzio, però la voce è più forte del rumore, quindi quando parli non c'è problema. Ah, ok, solamente quello lì volevo sapere. No, perché ieri mi si è strappato un filo e... strappato? Mi si è staccato un filo. Infatti ho aperto subito il connettore, ho controllato cos'era e c'era il filo staccato. Infatti me la sono subito immaginata, perché tutto un tratto non si sentiva più niente, non funzionava più il microfono. E controllo se non ci sia qualche piccolo contatto magari tra la calza e qualche cosa, queste scariche magari te lo da quel problema lì. No, è che l'ho rifatto tutto quanto il capo nuovo. Le saldature le ho rifatte tutte quanti a zero. Non lo so, vedi un po', perché è strano che faccia questa scarica, queste scarichette. Controlla piano piano a volte, basta un pelo di filo che tocca da qualche parte e ti fa queste scariche. Aspetta, va, che intanto ce l'ho aperto il connettore, aspetta che ne tolgo la guaina che copre tutto quanto, quello che quello lì è immobile, aspetta. Oppure prova a muoverlo mentre parli, muovilo, cioè mentre c'è la portata inserita, prova a muovere il cavo. Guarda che adesso lo muovo. Vedi, adesso non l'ha fatto, quella scarica. Adesso? Fai bianco, portante bianca. Così non si sente? No, tieni la portante senza parlare. Meno, l'ha fatto appena appena all'inizio e poi ha smesso. Se no che come c'ho la stufetta. Il riscaldamento qua a fianco a me. Non lo so, ma ripeto, non dà problemi, ti ascolto tranquillamente. Ah, ok, là. Quindi mi stai dicendo che la radio è buona? Sì, sì, buonissima, non ho nessun problema, ripeto. Tutto bene, da dove stai parlando? Da Sant'Orsola Nord. Ti arrivi bene qua. Tu dove sei? È Sacro Cuore più o meno, quindi linea d'aria non siamo lontani. Conta però che la mia antenna non è sul tetto, è sulla finestra. Ah, uh-huh. Tu mi stai arrivando a 9:10. O qua sei sul più del 30, prima del 30, dai. Quindi saranno, dovrebbe essere 9:20. Ah, uh-huh. Perfetto, no. Ok, grazie della prova, no. Adesso chiudo tutto, poi mi faccio la doccia, anche se abbiamo ancora brutto il travaglio. Bene, adesso stava di nuovo facendo scarichette, si sentivano sotto. Guarda il segnale adesso se va meglio. Sì, sei salita a 9:30 adesso. Adesso è 9:30. Così è, diciamo con il massimo dei watt, da. E a me bene, mi sentite? Eia. Sì. Aspetta, avete parlato in due. Mi hai schiacciato a Danilo. Avanti da lì. Ho detto, con quale radio sei? Questo è un samurai degli anni 80. Quindi c'è anche la spada? Questo c'ha tutto, spada, così, lame rotanti, tutto. No, comunque c'è bene, dai, già c'è bene, bella forte. Sì, beh, il microfono è uno Shure, è un buon microfono. Uh-huh. Quindi quel rumore adesso non lo senti più o lo senti poco e niente? Adesso niente, poc'anzi appena appena, ma sicuramente qualche problemino, qualche contatto, qualche falso contatto. Può essere anche il PTT, vedi un po' di spray nel PTT, qualsiasi cosa può essere, una fesseria sicuramente, perché la radio esce bene. Se no che mi compro la bomboletta, anzi, col compressore in garage lo apri e gli do una spruzzata d'aria. Da. Male non gli fa. Certo, non ci riesci, magari ci vuole quello spray per contatti, che è meglio, ci riesci troppo aggressivo, magari sgrassa tutto ed è peggio. Va bene un po' all'inizio, poi è peggio. E beh, Natali. E beh, Franco, e allora? Novità ci sono. Mi ho comprato tutto, sono riuscito a trovare i tasselli, perché ce ne vogliono due, mi ho comprato le tappe, belle anfrose. Quindi ancora niente, sei nelle vecchie condizioni, dai. Purtroppo sì. Vabbè, dai, piano piano, come dice, work in progress, lavori in corso. Infatti. Avanti, Danilo sta chiudendo lo spinotto, tu le sentivi quelle scarichette che c'ha sotto? No, non ci ho fatto caso, l'ho acceso adesso. Lei non stava più accendendo, porca miseria. Purtroppo qui c'era gente nella stanza dove c'era la radio, c'era gente che stava dormendo questi giorni. K, quindi niente radio. Ecco, allora, prima la salute, quindi aveva bisogno di aiuto e quindi si fa perché si può. Infatti. Comunque gli sta facendo sempre bene, dai. K, anda bene Meda. Ogni tanto accendeva a fare scaldare le radio, almeno accese, dai. Ma non sentivo più nessuno, non sta entrando più nessuno. No, già stanno entrando. Non lo so, orari che non hanno coinciso magari. Molto probabilmente sì. Io li sentivo ogni sera, li stavo sentendo. Una volta anche in quella frequenza là, non c'era nessuno, ma ho detto, tutti morti. E con i famini? Novità ci sono, qualche new entry, qualche nuovo entrato. Due, uno si chiama Andrea e l'altro Giuseppe. Parlavano tanto tempo fa e sono rientrati. Sempre zona nostra qui? Uno è qua e l'altro è a Tisi, sono due fratelli. Un successo. Tisi, provate che arrivi qua da me. Tu li senti bene? Quello di Tisi no, quello di Sassari sì, Andrea lo sento bene. E infatti immaginavo quello di Tisi, perché anch'io sono un po' negativo verso qua. Cioè, appena mi allontano da Sassari non sento più nessuno. Purtroppo è sempre quel problema dell'antenna, porca miseria. Oh, quella è. Avremo modo di ascoltarli. E infatti adesso quando la tirerò su l'antenna almeno è più alta e potrò sentire a tutti. Poi mi fai da ponte. E facciamo così, 100.000. Addirittura. Comunque il resto tutto bene, la salute va bene. La salute non tanto. Sono messo un ben male. Mi sembrava pimpante invece, vedi, avevi detto il contrario, dai, me lo arrillo. E se ti abbatti è peggio. Lì ti do pienamente ragione. Bisogna combattere e sempre andare avanti. Come stanno facendo in Ucraina? Sulla una lì che combattono lì. Sono anni in guerra quelli, oh yeah. Però adesso la Russia è andata a invaderli. Chiudersi quelli in mezzo. Li ha aiutati da voi, si è messa da parte. Ma la Russia dai mondiali. Speriamo che finisca in fretta questa guerra. Del campionato di Serie A. Per noi è una rovina, visto che stavamo dando tutto. Grano, pasta, pane, tutto, gasolio, gas, corrente, tutto aumenta, è tutta una catena. Paghiamo tutto noi. E infatti è inutile che gli abbiano messo le sanzioni quando danneggiano anche a noi. Lascio chiudere il rubetto del gas, siamo buttiti. No, che già lo prendiamo da altri posti. C'è l'Algeria, però non riesce a soddisfare il nostro fabbisogno. Dipendiamo troppo dagli altri noi. Purtroppo siamo sempre vincolati. Abbiamo fermato le centrali a carbone, te le voglio di nuovo riesumare. Dimmi, Ace, come sono? Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, mi senti? C'è sempre quel fruscio però sotto, Quel fruscio? Anche parlando? No, ripeto, quando parli lo tappi quel rumore, però se lasci il bianco si sente un po' queste scarichette, dai. Ah, ce lo lascio così, dai. Poi piano piano inizio a vedere come migliorare questo microfono. È un peccato, mi sei strappato ieri. Ne hai altri microfoni per fare una prova? Cioè, c'è un altro microfono, se dipende dalla radio o dal mic. Con questo è impossibile, è vero? No, qua è bianco proprio, quando la portante è bianca, perfetta. Questa qua è l'originale della radio. E quindi è un problema di cavi, di connessioni o di PTT. La radio non c'ha nulla. Perché? che qua le connessioni, il PTT mi dà il blu, però il blu nell'RG45 passa in un'altra parte. Nel 4, nel pin 4, boh, non l'ho già compreso. E poi tutto quanto uguale. E come la prima, lo schema l'ho fatto nuovamente. Perché prima di disinstallare tutto quanto mi sono fatto lo schemino, da. Questo è perfetto, va. Questo è perfetto. Ma anche la radio è buona, eh. Questa qua è l'originale proprio suo della radio. Questa qua è l'ICOM HM151. Questa qua è per il palmare. No, no, va benissimo, guarda. Va bene come radio, è buona. Invece l'altro che sto usando è l'MC60, però boh, strano. E quindi un K, un input, non so. Non so come funziona l'abbinamento tra ICOM e che, non lo so, qualcun altro l'ha provato forse. Mi fa se ne sa qualcosa. Natalino, le sai? Ma io sto usando la V508 e c'ha la connessione sia per Kenwood che per ICOM. Potrei essere, Natalino è molto forte come radio. Con questo microfono qua? No, adesso Natalino, rispetto alla tua radio, è molto forte. Ed è basso, mi. Guarda, guarda, adesso l'ho alzato, guarda un po'. No, no, ti porti appresso troppa roba, la musica della televisione, non so cosa sia. Meglio basso, tanto la radio rimane sempre forte, però non ti trascini tutta l'amplificazione, dai, della casa. Infatti. Questa è la V508 che si può abbinare a quell'apparato là, se un ICOM. Perché c'ha due attacchi questo microfono, sia per ICOM che per Kenwood. Abbassa un pelino ancora. Guarda, così è più basso, vediamo un po'. Una via di mezzo, trova, aumenta appena appena. Va così. Poi lasciano così, dai, va sempre bene. Cappa. Ma comunque Natali, cosa c'hai tu? L'attacco ICOM, quello RG45? Sì, c'ho l'RG45 attaccato al microfono e poi c'ha lo spinotto autopoli. Autopoli quello a Kenwood? Sì signore, tanto per intenderci, quello lì. Qualche giorno che voglia di aprire un attimino il connettore e scrivermi fili, ne hai voglia o non ne hai voglia? Ti posso prestare il microfono e lo guardi. No, perché se posso fare anche una foto mi va bene a me. L'importante è che non strappi i fili. Cappa. C'ha l'RG45 attaccato al microfono, perché c'ha due uscite, questo microfono. E poi c'è un pulsante sotto che c'è scritto ICOM o Kenwood. E qui è su ICOM, capito? Costa una settantina di euro questo microfono nuovo. E va bene? Più o meno il cavo è come lo spezzone che c'ho io, in poche parole. Che fa da una parte l'RG45 e dall'altra il Kenwood. E poi li vendono questi spezzoni qua a me. Il fatto che cosicchiano, anche se un pezzettino corto quello che c'ho io, l'ho pagato 15 euro. E ti conviene comprarti un nuovo, e così l'abri e abbai di, e così ne hai due, capito? Quando va male uno ci metti l'altro. Ti conviene comprartelo nuovo, il come si chiama? Lo spezzone. La prolunghezza, no? Sì, cavo. No, se me lo rifaccio a nuovo, intanto c'ho tutto, c'ho crepatrice, tutto quanto. E che questo spinotto, dalla parte del Kenwood, era tutto quanto già saldato. E poche parole, secondo me è roba riciclata questa qua, chissà che ha comparato. E poi lo spezzone più o meno 25-30 centimetri. Ma in quell'ICOM com'è quell'autopoli c'hai? Sì, l'RG è 45 quello autofuori, per forza. Quello lì è originale autofuori. Invece quello Kenwood, cioè quella 4 e quella 8, oppure anche quella 6. Io ho quella 8. Ho capito, come io ho la presa 8 nel mio, però forse tu c'hai l'RG 45 attaccato all'apparato, così è. Sì, proprio così. Invece questa è la rovescio. Si lascia scappare. L'RG 45 è attaccato al microfono qua. E c'ha l'attacco Kenwood, l'apparato. Vabbè, intanto i cavi, i fili sono sempre gli stessi, quelli che mandano. No, non cambia niente, perché quelli che spingono allo spinotto sono sempre di un colore, quelli che vanno all'RG 45 sono gli stessi colori, sempre nelle stesse posizioni sono. Perché l'MC 60 c'ha l'attacco 8, già ce l'avevo io, perché c'avevo il 440 prima. Io prima c'avevo il 140 e adesso c'ho questa qua, il 7000, e sto usando il Kenwood MC 60, però mi sono comprato questa spezzone, però era già tutto quanto saldato quando l'ho smontato. Cosa ti volevo dire? Ma nuovo l'hai preso quello lì? Che cosa, lo spezzone? No, l'apparecchio. È semi nuovo, in poche parole l'ha comprato, l'ha provato e me l'ha rivenduto a me. E te l'avrà fatto pagare un casotto di soldi, quello lì costa un sacco di soldi. 600 euro l'ho pagato. Questa cosa ho pagato 600 euro. Allora non l'hai pagato nulla. Nuovo costa 1200 e spiccioli. Lui lo stesso aveva pagato 650 perché l'aveva comprato da uno, non mi ricordo dove è questo, comunque zona di Roma. E l'ha comprato lì e sicuramente l'ha acquistato in seconda mano, anche lui. Sì, il nuovo costa quasi 1300 euro. Però questa qua è quello del modello del 2006, se non sbaglio, o 2016. Comunque questa qua è quello che puoi vedere anche la televisione. Lo metti, schiacci il pulsante del volume, è fisso, oppure lo schiacci anche a pulsante, e si vede il monitor che ti fa vedere il televisore. Ho capito. Già l'ho visto qual è già, quello che c'è il frontalino staccato, è così. Sì, questa qua si può entrare il frontalino. Com'è la marca? Che tipo è? Ecom? IC 7000. Non lo guardo a vedere. Ma il 7100 è o il 7000? No, il 7100 c'ha anche la linguetta sotto con i pulsanti, questa qua è il 7000. Quello più piccolo è, dai, ho capito. No, magari il 7100 oppure il 7300. No, il 7000 c'ho, il classico, no. Ho capito. Una bella bestia. Già è un casotto questa radio, perché c'ha un bel di roba, soprattutto un bel di filtri c'ha. Infatti i filtri me li sono bloccato senza toccarli mai più. Li posso gestire solamente appena appena qua frontalmente, oppure entrare dentro l'impostazione. Però quello prendo frontalmente non è che posso agire molto, capito? Però riesco a togliere tutti quanti i disturbi e balle varie. No, è bello, anche il microfono c'è un sacco di tasti, vedo qua, sempre che c'è quello. Io con IC7000, 50, 54 mega, 144, 146, 430, 440, già ne ha, là. Questa qua è il microfono, il 151 rimane, di numero, HM151. C'ha la tastiera come quella del cellulare, dei vecchi cellulari, e poi sopra c'ha altri 3, 6, 9 pulsanti. Già è quello, già. Sotto già ne ha 4 file, non vedo da quanto siano, da 4, da 5, sotto, dai. Poi c'è uno spazio, non so cosa ci sia, quello spazio, e poi sopra c'ha altre 3 file di tasti. In tutto sono 25 pulsanti. No, posso entrare anche direttamente nel menu col microfono. No, è bello, complimenti. Cosa ti volevo dire, Franco? Visto l'avevi il PMR? Che cosa? Quel PMR che mi avevo preso, ho visto l'hai? No, mi hanno dato altra roba, mi sa. E aspetta che ti rubo su di lì. Dai, adesso chiudo che vado a farmi la doccia. Dai, grazie per adesso, già ci sentiamo magari domani o dopodomani, dai. Faccio chiudo, vado a farmi la doccia, dopo vado a mangiare. Ciao, grazie a tutti, ciao. No, figurati, dai. Buona serata, buon tutto, buona carica alle prossimine. Un po' su Natalino, una cosa. Avanti Natalino per i saluti. E Natalino sta inviando. Guarda. Io pensavo che fosse un PMR al mare. Quello lì è, quel al marino. Sono geloso. Dimmi, Marcolì. Ciao a tutti, sono geloso Natalì, quello che piace a me. Ho buscato anche il programma suo, Marco. Me l'hai detto, già collaudato, funzionante? No, il programma non l'ho solo installato, ma i canali che c'ha glieli ho messi io, dai, manualmente, perché prima non avevo il programma. Che marca è? Aspetta, te lo scrivo. Perché si legge poco da sopra, si vede un po' in diagonale. E poi mi ho preso anche un alimentatore. Grosso? Aspetta, lo faccio vedere. Se avevo parenti da Natalino. Marco lì. Eia, Natalino sta dando i grandi ai fogli acquisti, eia. E io pure mi. Anche tu, aspetta che guardo. Aspetta che chiudo. Piccolini sono, dai. Siamo un amplificatore di quelli vecchi a lancette. L'alimentatore? Quei vecchi amplificatori analogici, che a me piacciono tanto ancora. E ho visto Natalì, bello. Te l'ho scritto cosa era. Sì, ho letto. E i miei figli ci stanno entrando dentro le casse. Abbassiamo la potenza al minimo. E tu Marco, cosa hai acquistato, lo puoi dire? Ah no, parlavo in generale, fra niente di nuovo, di recente. No, pensavo anche tu, qualche radio di ultima generazione. No, un pochino mi sono dato una calmata, dai. Io ero qualche mesetto senza accendere, perché ripeto, questa stanza avevamo ospiti che ne avevamo bisogno, e quindi stavo dando una mano, dai. Marco, l'ho mandato pure a te. Un elenco di nuovi. Uno è da 30 e l'altro è da 35, fra. Bene, nuovi li hai presi? Sì, sono tutti e due nuovi. Li avevo presi nuovi, cioè l'ultimo l'ho preso da poco. No, ma dico, dal negozio oppure da un privato? No, dal negozio. Belli. Questo è ancora quello vecchio da 10 ampere, figurati, arriva l'anno 3. Ho intanto un po' rumore la ventola che ci ho messo. Due colpi e sempre andendi. Quello lì l'ho preso per attaccare solo questo, mi quello da 35. Niente, che quei portatili costano un sacco di batterie. Quel portatile l'ho attaccato a quello da 30, insieme all'altra, a tutto l'ambaradam. Invece quello da 35 è per alimentare questo. E quando lo usi a massima potenza, con 4 watt, sicuramente assorbe un bel. Ma è anche DMR o solo PMR? No, PMR. Quello c'è il modello che stai dicendo tu, però non è. Non fa due ricezioni. Fa solo una monofrequenza, dai. Questo invece come mio può ricevere due frequenze contemporaneamente. Questo qui sì. C'ha il dual, come si dice. Questo è bello. La tecnologia ci viene centellinata. Sicuramente ci sono le possibilità tecniche di farlo anche quello, due ricezioni simultanee. Però capito, ti fanno uscire il modello che riceve solo una banda. Dopo, in futuro, faranno uscire quello che riceve due in simultanea. Sempre centellinata la tecnologia. Io vago. E il 73 è quello che fa, quello che dice Franco. Però Gianfranco mi ha detto che o senti uno o senti l'altro, invece quello che ho io li senti tutti e due. A proposito Natalio, ho allargato il foro, chissà se esce appena meglio quella cosa, su. Hai allargato il foro? Eia, mi sto dedicando a allargare i fori, ieri ne ho allargati due di fori, perché mi sentivate basso di modulazione. Certo, non sarà eccezionale, però volendo si può fare una prova rapida. Come dicono nel derby, com'era? Messina, Reggio Calabria, vi allargheremo allo stretto, così era lo striscione. Eia. Se va meglio? Vediamo se Natalino può. La frequenza la sa già. Marco. Che avanti. Io ti sento, ma non mi senti tu? Non hai risposto. Hai ricevuto? Sì, mi accontento, dai, mi accontento. Sì, guarda, poi uno, vabbè, tanto quanto, ma l'altro era veramente meno di un millimetro il foro, Gli ho fatto da 3 millimetri, abbondante pure. Cosa ti volevo dire? Ma non ho capito, il foro che è allargato. Il foro dove entra la voce per il microfono lì. Ah, del microfono. Eia, era veramente piccolo, diciamo uno più dell'altro. Vedi, questo, per esempio, questo è un baracchino, no? C'ha lo stesso un forellino da un millimetro, ma è tutto un altro mondo. Tutto un altro mondo, vabbè. E lì purtroppo è la radio che ha una modulazione bassa. E in più gli fanno questi forellini da mezzo millimetro, aprendo guadagni appena appena, non assai, però un po' guadagni, dai. Non si possono fare miracoli, ma migliora. Sì, sì, ha migliorato, infatti. Tu pensa a quello del telefonino che è piccolissimo, eppure si sente un bene allucinante. Sì, Afra, ma il telefonino è fatto proprio, cioè, come si fa a progettare una radio che sai che uscirà bassissima di radio, cioè, non gliene frega niente ai cinesi, capito? Lo fanno, poi se ti piace bene, se no ti vendono la prossima che sarà migliore, capito? E dall'interno non si può regolare niente, aumentare un po' la modulazione? No, niente. Lì non è come il baracchino, lì te lo devi tenere. Ho visto di peggio però, Ce n'era uno che non usciva quasi di radio, da quanto era bassa. Potevi allargare il buco quanto volevi, ma non migliorava. Ah, va bene. Prendi la tarì. Ma qual è quello potabile? No. Mo te lo faccio vedere. Fammelo vedere. Franco, riprendi? Mi copia questa distanza, sono a mezzo metro. Sì, non ho problemi, ti ascolto benissimo. No, io ho ordinato invece un piccolo microfono per il portatile, già forse un mese e mezzo fa. Dovrebbe arrivarmi a marzo e... Da WeCity, come si chiama? Non mi viene adesso. AliExpress, mi sembra. Adesso guardo. Sì, l'ho ordinato da AliExpress. È molto fornito quel negozio, è molto molto fornito, trovi di tutto, di tutto. Vediamo che arrivi. Ho le panche di recensione, sembra che già funzioni bene, ma più che altro mi serve per comodità, dai, quando lo uso in casa magari proviamo questo microfono esterno, dai. Io ce l'ho il microfono esterno, ne ho due. E un giorno, se capita, lo proviamo, vediamo un po' come rende, non sia una porcheria, già l'ho pagato poco, E infatti io ne ho due di quei microfoni lì. È piccolino, è molto molto contenuto come misure. E anche questi due che ho io. Io ho quello giallo e nero, l'apparecchio. Adesso vediamo, quando arriva. Lo proviamo. Io ripeto, giusto per comodità, Infatti. Avanti Marco. Scappa un attimino, Ok. C'è qualcun altro sul 10 che vuole entrare avanti? Penuria. C'è abbastanza attività in VHF, però un pochino il 27 sta languendo. Diciamo siamo discontinui, io poi più che mai, io non ci vado e vengo, quindi. Marco, gatta, pigliati quello che ho io, che è di lusso. Sono povero. Costa molto perché è nata lì. No, 129 costa. Ma non è un granché, però ognuno sa delle sue tasche. Però guarda, di lusso. Beh, ci credo. Già ci credo. Non hai ascoltato tu? No, no. Non sapevo dove eravate. E il 7. Aspetta che accendo. Hola. Che avanti? Ebbe. Buonasera. Rientrato, ciao Antonio. Anche io. Gava gava. Vabbè Antonio. E allora, come ti anda? Tu, Giacca. E che ti do da te? In mezzo con buca in dei posti. E poi faccio la doccia. Allora, con il caffè moro bianco di gaccio. Ma come non si intende oggi? No, sono una persona abbastanza pulita qua. No, non è... non vi neri che ci cose. Bombolino, bomboletto. E allora, sta lì. 60 minuti, Antu. Stamattina, non, tutta la mattina lavorando sono stato, anche quasi metà sera, poi già sono entrato da stazione 2. E capo, io sono, mi ho fatto l'impianto nella macchina e ho parlato con Luca stamattina. Purtroppo sono uscito alle 8 di mattina, non mi sono più rientrato. Vabbè, vuol dire che per travaglio. Capito? Ma che proviamo già? E capo, ho parlato con con Luca stamattina. Ero sotto a casa io e dice che esco bene. Che antenna hai messo? Io, stazione 2. No, Natalino, che cosa hai messo in macchina? Che antenna? Quella che avevo sul frigorifero, la PLC 800. È lunga, no? Quella è lunga ed esce bene la radio con quella. Certo, la capota dove l'hai messa? No, sulla magnetica l'ho messa, così non la posso togliere. Se no, non gli va a Vinimara. Dai, avremo modo di sentire. Le prove dove le hai fatte? Tu da casa tua? No, in macchina le ho fatte. Sotto a casa ero e stavo parlando con Luca, dice che scombe bene. Ho buscato un baracchino di quelli piccoli mi della Intec, quelli antichi, e me l'ho messo in macchina. Beh, va bene, ma che tu non cosa hai messo? Capa, stazione 2 ho messo la Ringo sempre, l'Intec. Ma stazione 2 in che senso? Perché sempre la casa però. No, negativo. Da negozio? Sì, già. E adesso perché sei così basso? Ho cambiato antenna. Sì, ma è l'antenna di buccio, interna? No, sul tetto, ma a pochi watt, il portatile, bene ci sente. Il segnale 9, la radio va bene, è chiara. Scappa. Ma avrà 2-3 watt, non di più. E con l'antenna 2, però di casa, dai. Con la Storm 27, già andava. Sì, beh, si sente che non sei a quelli belli dell'altra antenna, però ti sento lo stesso. Vabbè, un baracchinetto, quello. Ehi, conteghito, ma te, un baracchinetto. Scappa. È un portatile, anzi, perché sono un portatile abbastanza bene, però con l'antenna sul tetto. No, vabbè, la radio è chiara, non è fortissima, però è bella chiara, limpida. Se avrei lasciato l'antenna in gomma non sarei uscito dal luogo. Invece l'antenna è sul tetto sempre. Ehi, ma che ti ascolto lo stesso, chi è che è entrato? Avanti. E si conferma.